poi nel vento. Corri, corri, corri, in un quadro di Rembrandt. Occhi ciechi vorrebbero vedere un quadro di Rembrandt. Luci sparse in una notte stellata di Van Gogh, mentre appare un orologio molle di Salvador Dalì. E confini nautici da lì in poi, notte lì, sconfinandoli in giardini di un mago, dove un drago rapì principessa, la portò nel castello fatato. E lì un cavaliere errante, indomito, la salvò. Brandì quel drago e infilò la lancia di Gesù nel costato del male. La libertà vuole volare nei cieli e nel mare.